Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Metà settimana, vai, il guado è raggiunto. Ma sì, basta poco, fra poco è weekend, sì, vacanza. Io pensavo le stesse cose quando facevo il liceo, no? Non vedevo l'ora che arrivasse il sabato. Adesso fai l'asilo, quindi... Però poi col tempo mi è passata. Invece tu, Kappa, sei ancora lì a contare i minuti che ti separano. Perché sono i minuti sono importanti. Noi ci pagano a minuto, sì, quindi è importante. Tutti, allora se vai a vedere li pagano a minuto, basta dividere per i minuti. Sì, ma non è uguale, è all'ingrosso così. Tito. No, vabbè. Tito, fai il bravo cane, Tito. Insomma, stiamo parlando anche di soldi che danno a me e che quindi poi dopo io uso per comprare la tua pappa. Quindi se io non compro più la tua pappa. Questo ricatto alla Marchionne, no? Vabbè, dai, la grande novità nel mondo dei bambini italiani è l'introduzione del piatto unico in mensa. Questa è la notizia del giorno. Soprattutto nel nord Italia sono tantissime le mense scolastiche che stanno passando al piatto unico. Ma faranno così anche nella buvette di Montecitorio? No, ma cosa c'entra adesso Montecitorio? Ma scusa, c'entra, no? Un po' di dieta gli fa bene a tutti, ai bambini, ai politici, ai bambini politici. Guarda, la buvette è proprio uno dei motivi principali per cui un cittadino normale, normodotato, può scegliere di diventare un politico prima o poi nella vita. Resta che il piatto unico è solo una provocazione, bella e buona, Drago. In un paese come l'Italia cosa fa il piatto unico? No, infatti i genitori sono già sul piede di guerra, tutti preoccupati che i loro pargoletti muoiano di stenti. Potrebbero fare un secchio con tutto dentro, sopra le uova, un po' di formaggio, allora ci sta il piatto unico. Un bambino dentro il secchio. Comunque a 150 anni dall'Unità d'Italia un attacco così diretto all'identità nazionale non se l'aspettava nessuno, Adesso quale attacco all'identità nazionale? Ma come, Drago? Un piatto unico, immensa, una cosa, è una innovazione che io... Delle cose principali in cui si identifica il popolo italiano è proprio la sequenza di portate durante il pasto quotidiano, l'antipasto, freddo e caldo, di mare, di terra, di aria, di fuoco, i primi, i secondi, i formaggi, il dolce, la frutta, il caffè. L'ammazza caffè. L'ammazza caffè. E poi il caffè alla fine... È morto. E ora, bambini, ricreazione. Oh, ricreazione, lo dico io per una volta. Bravo. Sono contento. Magari non becchiamo nemmeno il bambino Alberto. No, basta giusto voi. Ma di questa novità del piatto unico, cos'è che mi dite? Noi cosa vogliamo che ti... Niente, cosa ti diciamo? Niente. Noi non c'entriamo niente. Non c'entrate niente. Voi siete gli unici due adulti che mi danno retta. Se lo chiedo a Fordentona mi prende bastonate. Vabbè, ma è il piatto unico della mensa, no? Sarà quello. Sì, piatto unico. Sì. Vabbè, prima c'era il primo, il secondo e il contorno. Adesso c'è il piatto unico. Beh, ma è meglio, dai. Una dieta sana non deve mescolare cose troppo diverse nello stesso pasto. Cioè, pensiero unico. Vabbè, pensiero unico, dieta unica, piatto unico. Ma no, Drago, ai bambini e anche ai grandi piace cambiare. Piace avere tante cose da scegliere per poi dire che non vogliono niente. Appunto, quindi vabbè, invece, ma piatto unico. Ma bisogna scegliere. Il piatto unico è troppo unico. Unico, puoi scegliere, c'è solo quello. Che divertimento c'è a mangiare? Ma sono tutte scuse per risparmiare. Fordentona ha dovuto stringere i cordoni della borsa e ha deciso che d'ora in poi si mangia un piatto solo. Questo asilo sta diventando una specie di Guantanamo. Vabbè, adesso non esageriamo, E alla fine, anche se protestiamo, ma chi ci sta a sentire noi bambini? Qui ci vorrebbe una cosa tipo Wikileaks, Assange. Fallo tu. Per far scoppiare il bubone del piatto unico. Ti fai, ti ossigeni i capelli e impari qualcosa di computer e fai il nuovo Assange dell'asilo. Questa è un'idea, unico, un piatto unico. Contro il piatto unico. Però dai, è solo questione di cambiare abitudini, bambino Alberto, perché tu sei piccolino e fai anche presto a cambiare abitudini. Quindi non rimpiangerai più le portate multiple, tipiche di quella vecchia Italia che sta scomparendo. E poi piatto unico vuol dire anche piatto sostanzioso, una bella quiche piena di cose buone, una bella zuppa di legumi e verdure. Ma sai che mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci? Eh sì, bravo, la quiche. La quiche col prosciutto, tutto il formaggio. Ma che prosciutto? Se vi ho appena detto che lo farò per risparmiare. Piatto unico è piatto unico. E per dire alla francese, ça va sans dire, il piatto unico e unico piatto che mangeremo da qui alla fine dei nostri giorni sarà i finocchi cotti. Ma no, ma come? Ma non sono mica un piatto unico. Ma non ve l'ho detto che era una fregatura, eh? Piatto unico, finocchi e senza olio. Nemmeno gratinati, che no, li puoi mettere in forno. Bolliti, lessati. Forno con niente. Ma no, l'unica alternativa che ci permettono è mangiare finocchi crudi, cioè pinzimonio. Vabbè, ma che pinzimonio è senza olio? Appunto, e infatti adesso scatta lo sciopero della fame. Qui succede una cosa, un evento, tipo Bobby Sands, tipo Marco Pannella. Vabbè, però sono due cose diverse, Bobby Sands e Pannella hanno due carriere simili, ma con due esiti diversi. Perché Bobby Sands, chissà come, ha fatto uno sciopero della fame solo e poi... è morto. Pannella ne ha fatti 300 e è ancora vivo. Vedi, all'estero fanno sempre tutto meglio. Dai, basta, Drago, Bertuccio, veniamo al punto. Bertuccio chi? Vabbè, dai, Alberto. Tanto comunque, voglio dire, tra mangiare una porzione di finocchi cotti o crudi e non mangiare niente, non è che cambi molto, Vabbè. Tanto poi mangio a casa e chi se ne frega. Ah, vedi. Il brutto è che adesso cercheranno di obbligarmi a mangiare finocchi cotti. Le suore, le signorine, gli psicologi. Sì, infatti, guarda, bambino Bergman, forse è meglio che lasci stare l'idea dello sciopero della fame, è troppo. È troppo cosa? È troppo. Parliamo noi con la direzione, vediamo noi quello che possiamo fare. Ah, veramente? Cioè, lo faresti davvero? Ma sì, certo, è vero, Drago. Ma chi, noi? Ma sì, Drago, dai, non tradire la fiducia che hai in noi. Appunto, non fare promesse che non puoi poi mantenere. Insomma, bambino Alberto, io non so, queste sono decisioni dei sindaci, degli assessori, dei provveditori, no, non Drago, lo so. Smettila, non fare il negativo, preparati a dar voce alla protesta del bambino Alberto. Non fare il cialtrone, capa, non possiamo fare queste cose. Allora siamo d'accordo. Ma cosa? È che voi farete tornare le vecchie portate. Sì, sì, gli antipasti anche, i dolci e... Primo, secondo, con contorno? Certo, quali antipasti, quali contorni? Antipasti alla piemontese. Ma sapete cosa vi dico? Che a quel punto il contorno mi va bene anche di finocchi cotti, ma con un filino d'olio però. Chiedo asilo! E ora, bambini, il sonnellino. Forse anche sulle funzioni. Drago, l'abbiamo detto ieri. Sì, ho capito. Quando nelle chat schiacci per sbaglio al posto dell'invio, schiacci la U accentata, non vai a capo, ma al posto della capo. Dopo vai a capo lo stesso. Vai dopo. Quindi è U a capo. Tutti leggono U a capo. Capito? Quindi. Vabbè, adesso dormiamo. Voglio dormire. Però io non ho capito esattamente che cosa vuol fare il bambino Marchionne. Cosa vuol fare? Vuole riorganizzare l'orario di lavoro alla Fiat così come ce l'ha in testa lui. E basta. Come ce l'ha in testa? C'è in testa un'azienda tipo giapponese, no? Dove lavori sempre anche quando sei a casa. Ma come fai a lavorare quando sei a casa? Cioè, pensi, sì, nel senso, rifletti a come migliorare la tua produttività. Ecco. Una volta che arrivi a casa, invece di passare il tuo tempo con i bambini, con la famiglia, ti chiudi in camera tua e metti giù una lista di proposte per migliorare la tua produttività. Così poi il giorno dopo tu arrivi con la tua lista e l'azienda capisce di poter contare su di te perché hai a cuore le sorti del tuo lavoro, capito? Scusa, questo è il modello Toyota. Uno ha la catena di montaggio che schiaccia un bottone, sta a casa a pensare come fa a migliorare la sua produttività, sta a casa pensa come lo schiaccio questo bottone, col pollice o con l'indice? Lui arriva e dice, non so, io d'ora in avanti non voglio più fare la pausa pranzo, d'ora in avanti non farò più la pausa pipì, insomma fai delle offerte e cerchi di intercettare i gusti del tuo datore di lavoro. Ma cosa stai dicendo? Sei un operaio, non è che devi intercettare i gusti del tuo datore di lavoro, devi lavorare questa volta, capo, adesso è tutto cambiato, adesso devi continuamente offrire al tuo datore di lavoro nuove occasioni di sfruttamento, cioè l'importante è offrirle con gradualità, no? Cioè non è che conviene togliersi direttamente i pantaloni e farsi inchiappettare, forse no, così come vorrebbe Marchionne, così è meglio fare tipo lo strip poker, ho capito, ti togli un pezzo dopo l'altro, solo dopo ti fai inchiappettare, così. Ma quindi il bambino Marchionne in pratica con gli operai gioca a strip poker? Sì, in pratica sì, però lui non l'ho mai visto nemmeno senza pullover, figurati senza pantaloni. È come un'inchiappetta. Arrivano a valanghe suggerimenti per i nostri alternativi. Dobbiamo ringraziare Angelo, dobbiamo ringraziare Stefania. Posso dire una cosa, Luca, però? Evitate Antonio. Quelle così troppo sboccate. Non possiamo dire certe cose alla radio. Quindi cercate di stare in metrica, ma con delle cose pronunciabili. Sì, tipo la panna montata. Esatto. Oppure mercato globale. Oppure, non so, di una tu, le dico sempre io. Baciamo le mani. L'abbiamo già detto.